Economia in Europa. In collaborazione con Euronet. Le dimissioni del presidente tedesco Christian Wolff, la riunione dell'Eurogruppo di lunedì 20 febbraio con il tanto atteso via libera ai 130 miliardi di euro di aiuti alla Grecia e la lettera firmata da 12 paesi e inviata proprio il 20 febbraio al presidente del Consiglio europeo Van Rompuy e al presidente della Commissione europea Barroso con le proposte per rilanciare la crescita dell'Europa. Sono questi i principali argomenti al centro della cronaca economico-finanziaria europea e di questa puntata di Economia in Europa. Nella prima mattinata di venerdì 17 febbraio, la cancelliera tedesca Angela Merkel ha annullato la visita prevista a Roma per la stessa giornata di venerdì. Con due telefonate la cancelliera ha informato il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e il premier Mario Monti dell'impossibilità di lasciare la Germania per ragioni di politica interna. Le voci diffuse in un primo momento che attribuivano la reale ragione dell'annullamento della visita all'annuncio imminente di decisioni importanti da parte della Germania sulla crisi greca sono state subito smentite dall'arrivo di una notizia di effettiva rilevanza sul fronte della politica interna tedesca. Si è infatti dimesso il presidente tedesco Christian Wolff nell'occhio del ciclone dalla fine del 2011 per lo scandalo che lo ha visto coinvolto in relazione ad un finanziamento a tassi di favore ottenuto da un imprenditore per costruire una casa in Bassa Sassonia, il Lander di cui era presidente. Fra i nomi circolati in un primo momento per la successione c'è anche quello del ministro delle finanze Wolfgang Schäuble, che secondo indiscrezioni negli ultimi giorni sarebbe entrato in contrasto con la signora Merkel sulla gestione del caso Grecia. Secondo il Financial Times, infatti, la posizione di Schäuble sarebbe favorevole a lasciar fallire Atene, raccogliendo la netta opposizione della cancelliera a questa ipotesi. La candidatura di Schäuble alla presidenza della Repubblica avrebbe quindi, stando alle ipotesi giornalistiche, permesso alla Merkel di indicare per il Ministero dell'Economia il nome di una figura più vicina alle sue posizioni sull'eventualità di un default di Atene. Sentiamo proprio su queste prime ipotesi Alessandro Merli, corrispondente da Francoforte per il Sole 24 Ore. Quello di Schäuble è uno dei nomi che circolano in queste ore abbastanza concitate, per la verità, perché anche se Wolff era nel mirino da mesi, alla fine tutto è precipitato perché ieri sera la procura di Hannover ha chiesto che gli venisse tolta l'immunità presidenziale. Stamattina è arrivato l'annuncio, poco dopo la signora Merkel ha detto una cosa interessante: sceglieremo insieme all'opposizione. Bisogna ricordare che due anni fa, quando è stato eletto Wolff, la signora Merkel lo ha voluto a tutti i costi, anche contro il parere dell'opposizione e anche contro una parte della sua maggioranza. Quindi si apre un problema politico per il cancelliere, primo perché Wolff era stata una sua scelta voluta a tutti i costi, secondo perché a questo punto nell'Assemblea federale, che è quella che elegge il Presidente della Repubblica, l'Assemblea federale è composta dai due rami del Parlamento e da tutti i rappresentanti delle regioni tedesche, nell'Assemblea federale a questo punto la signora Merkel non ha più la maggioranza come aveva due anni fa, perché ha perso diverse elezioni nei Länder. Quindi una scelta un po' obbligata, quella di dire parliamo con l'opposizione. Bisogna vedere se l'opposizione accetterà un'altra figura dei democristiani, sicuramente Schäuble è un personaggio molto molto rispettato, oppure se chiederanno di avere stavolta un loro rappresentante. Non dimentichiamo che due anni fa l'oppositore di Wolff, candidato dai socialdemocratici e dai verdi, era una figura molto popolare, un pastore evangelico che si chiama Joachim Gauck, che viene dall'ex Germania dell'Est, era stato un attivista per i diritti umani sotto il comunismo, una figura più popolare di quella di Wolff che la Merkel appunto aveva imposto. Quindi tutti i giochi sono aperti, come dico, il nome di Schäuble è uno di quelli che circolano, ma anche nello stesso partito della Merkel ce ne sono altri, come per esempio il ministro del lavoro Ursula von der Leyen, ci sono un paio di altre figure. Quindi diciamo che per ora siamo nel campo dell'ipotesi, quello che è certo è che la signora Merkel ha un problema politico molto serio, perché da un lato è stata lei a volere a tutti i costi Wolf e dall'altro a questo punto lo deve eleggere ma anche con i voti dell'opposizione. E alla fine sarà proprio Joachim Gauck, ex pastore protestante, fra i nomi citati dal corrispondente Alessandro Merli, a prendere il posto di Wolf alla presidenza della Repubblica Federale Tedesca. Una decisione presa dopo un lungo, difficile vertice della maggioranza che avrebbe visto la cancelliera Angela Merkel rinunciare a quello che sembrava il suo ostinato no a Gauck, cedendo ai consigli dei suoi alleati del Partito Liberale. L'attenzione non è rimasta a lungo sulle vicende interne tedesche. Lunedì 20 febbraio, infatti, è stato il giorno tanto atteso del vertice dell'Eurogruppo. I ministri economico-finanziari dell'area euro si sono riuniti nel pomeriggio a Bruxelles per pronunciarsi sulla nuova tranche da 130 miliardi di euro di aiuti alla Grecia, fondamentali in vista della scadenza del prossimo 20 marzo, quando Atene dovrà rifinanziare bond in scadenza per 14 miliardi e mezzo di euro. Sentiamo le impressioni di Antonio Poglio Sanimbeni, corrispondente di Radio Cori Le Sole 24 Ore da Bruxelles, proprio nel pomeriggio di lunedì. Cioè, c'è aree di accordo, ma non si capisce bene a quest'ora del pomeriggio se quanto vogliono farci credere i ministri o invece sia l'esatta realtà. La riunione dell'Eurogruppo è destinata a durare fino a tardi, molto tardi, ci dicono. Ci sono sul tavolo delle cose ancora da risolvere. Una, per esempio, è chi gestisce il conto bancario speciale bloccato nel quale dovrebbe essere trasferita una congrua parte del prestito destinata esclusivamente a rimborsare il debito. A gestirlo non saranno i greci, questo la dice lunga sul livello di fiducia, cioè sulla grande sfiducia che c'è nei confronti della Grecia. Questo è uno dei temi che arroventa un po' la discussione. E prima dell'Eurogruppo si è espresso sull'urgenza di arginare il pericoloso focolaio greco anche il premier italiano Mario Monti. Sentiamo. Abbiamo cominciato a premere in due direzioni. Una, quella della soluzione del principale, del più pericoloso focolaio, che è quello greco. Quindi, dopo avere saldamente ancorato la penisola italiana alla piattaforma continentale in modo che non si muovesse in direzione di sud-est, abbiamo cercato di aiutare la Grecia a muoversi essa in direzione di nord-ovest e in particolare in quest'ultimo periodo abbiamo coltivato, accresciuto, corroborato la convinzione di un numero crescente di stati membri dell'Eurozona che sarebbe tuttora grave la possibile perturbazione, benché Italia e Spagna si siano messe su una via retta di politica economica ove il fronte greco avesse ulteriori serie difficoltà. A notte inoltrata, dopo più di 12 ore di riunioni bilaterali e accordi separati, l'Eurogruppo ha infine dato il via libera ai 130 miliardi di euro di aiuti alla Grecia, fissando un nuovo target per il debito più alto del precedente e aumentando le perdite che i creditori privati subiranno dopo lo swap dei titoli. La perdita di valore netto sui bond ellenici da scambiare con i nuovi bond a 30 anni dovrebbe salire a circa il 75%. È questa la concessione concordata fra Eurogruppo e i vertici dell'Institute of International Finance. Il taglio del valore nominale dei titoli sale invece dal 50 al 53,5%. Complessivamente il contributo dei privati dovrebbe arrivare, secondo fonti europee, a 2,8 miliardi di euro in più. L'accordo negoziato fra Eurogruppo e Institute of International Finance permetterà la cancellazione di 107 miliardi di debito greco. Il primo ministro greco, Lucas Papademos, ha detto di essere molto soddisfatto di avere ottenuto l'ok ad un piano di salvataggio senza precedenti per evitare il fallimento di Atene. Papademos ha assicurato che le riforme promesse come contropartita saranno realizzate la settimana dopo le prossime elezioni di aprile. Dobbiamo mettere in opera il programma nei tempi stabiliti e in modo efficace, ha detto il leader greco. Di fatto l'accordo di lunedì notte commissaria la Grecia con una vigilanza stretta permanente della Troica, Unione Europea, BCE e Fondo Monetario. I nuovi 130 miliardi arriveranno in gran parte dagli Stati membri dell'Eurozona, che sperano in un significativo contributo del Fondo Monetario. Quanto significativo, la direttrice Christine Lagarde lo deciderà a marzo. Le misure dovrebbero consentire di ridurre il debito dall'attuale 163% del PIL al 120% entro il 2020. La struttura dell'accordo si basa sulla previsione di un ritorno alla crescita nel 2014, elemento che suscita non poche perplessità fra i commentatori economici. Sentiamo il commento di Mario De Aglio, docente di economia internazionale all'Università di Torino, editorialista della Stampa, intervistato martedì 21 febbraio da Sebastiano Barisoni. C'è di fondo un eccesso di ottimismo, è tutto basato su una visione della Grecia che nel 2014, oppure era l'unica soluzione possibile perché ormai non c'era più tempo? Direi che tutte e due le cose sono vere, c'è un eccesso di ottimismo che si è costruito ad arte, credo che tutti sappiamo bene che questo piano nel lungo periodo non può tenere, ma insomma l'ammalato è stato operato, è stato rimandato in reparto, per il momento non corre rischi e poi Dio provvederà. Mi pare che la logica sia un po' di questo genere, i rischi sono un po' lontani, quando arriveranno c'è una specie di rinvio del problema principale, cioè il problema, come lei diceva, è quello del funzionamento dei rapporti tra un paese membro della moneta unica e la moneta stessa, che lo ingabbia, gli toglie una parte della sovranità e gli impedisce di difendersi in una situazione di questo tipo. Ecco, quindi lei dice, se posso forzare l'analisi, è un po' come mettere la polvere sotto il tappeto, perché se il problema... Un pochino sì, sperando che insomma questo tappeto non debba essere scoperchiato per un po' di tempo e poi appunto nella storia le cose cambiano, chissà cosa succederà di qui a un po' di anni. Ma perlomeno sì, abbiamo passato l'emergenza. Speriamo che le pulizie, diciamo, di primavera arrivino nella primavera del 2014 a sto punto, per usare... Sì, infatti, vediamo poi allora che cosa avrà fatto, come sarà fatta l'Unione Europea. Ecco. Va anche forse sottolineato che quasi contemporaneamente a questo accordo c'è stato questo documento di 9 capi di governo che delineano un certo tipo di futuro piuttosto liberista dell'Unione Europea. Quindi credo che l'immobilismo attuale non lo rivedremo più. E c'è un'altra notizia importante arrivata sempre nella giornata di lunedì. 8 priorità per rilanciare la crescita in stallo in un'Europa con la disoccupazione in aumento. Obiettivo: aprire il mercato dei servizi, che rappresenta quasi 4/5 dell'economia europea. E il contributo della lettera, nata per iniziativa di Regno Unito e Olanda e con Italia tra i promotori, inviata proprio il 20 febbraio al Presidente del Consiglio europeo Van Rompuy e al Presidente della Commissione europea Barroso, mentre si riuniva l'Eurogruppo sulla Grecia. Oltre a Cameron, Rutte e Monti, l'hanno firmata i premier di Estonia, Lettonia, Finlandia, Irlanda, Repubblica Ceca, Slovacchia, Spagna, Svezia e Polonia, ma non Francia e Germania. Non va vissuta come una contrapposizione alle tante ricette arrivate all'Unione Europea da Berlino e Parigi, ha spiegato il ministro italiano per gli affari europei Enzo Moavero, ma nella lettera vengono lanciati segnali chiari: aprire il mercato dell'energia, dove la Francia è indietro, e no ai salvataggi ad ogni costo per le banche, come la Germania sta facendo per le Landesbank. E proprio sull'assenza della firma da parte di Francia e Germania, torniamo a sentire Antonio Pollio Salimbeni. La motivazione ufficiale è la data del ministro delle politiche comunitarie Moavero, che invita a non considerare questa lettera in contrapposizione con Francia e Germania, soprattutto con una lettera che i due paesi, proprio sulla crescita, grosso modo sugli stessi temi, aveva confezionato prima dell'ultimo vertice di un mese fa. In realtà ci sono due ordini di considerazioni. La prima è questa: ci sono su alcune misure, su alcune cose che vengono scritte in questa lettera, per esempio sulle banche, per esempio sul settore dell'energia, per esempio sul settore dei servizi, in particolare finanziari, ci sono delle, se non, diciamo delle dissonanze rispetto a delle posizioni che via Francia e Germania hanno posto sul tappeto. Ma questo non sarebbe poi e questo è un elemento da registrare. La seconda considerazione è più di carattere squisitamente politico. Il fatto che non si sia cercato di coinvolgere Francia e Germania, ma si sia atteso, questo è il racconto di Moavero, e si sia atteso che venissero dei contributi a questa iniziativa, e il fatto che l'iniziativa sia stata promossa da Italia, Olanda e Gran Bretagna, diciamo, è un messaggio che ci dice le geometrie politiche in Europa sono variabili, non c'è soltanto l'asse franco-tedesco, e non c'è soltanto l'asse franco-tedesco al quale si è recentemente aggiunto anche Mario Monti. In realtà, a ben vedere, è anche interesse della stessa, questa è un'opinione di tutto personale, così ve la dico, è interesse di Francia e Germania non solo non essere percepiti come l'asse che tutto fa, anche perché tutto non può fare in Europa, per decisivo che sia, ma se come è un asse decisivo, naturalmente deve anche assumersi tutti gli oneri politici ed anche economici che derivano da questo status. In fondo le geometrie variabili tolgono un po' di carne al fuoco franco-tedesco. E per questa settimana con Economia in Europa è tutto. Economia in Europa. In collaborazione con Euronet.